In principio erano gli sconti. E gli sconti erano presso Porta de Roma. Porta de Roma è un centro commerciale che sta alla Bufalotta. E la Bufalotta è periferia. La periferia vuota, abbandonata a se stessa. La periferia senza servizi, senza asili. La periferia puzzolente, la periferia discarica. Una periferia violenta però, sadica, che mena forte. La classica periferia di Roma che se Pasolini fosse ancora vivo non perderebbe occasione di andarci a crepare di nuovo lui là a Bufalotta. Lo fa sempre. Sempre. Adesso prendiamoci il nostro tempo per spendere due parole due sulla situazione della periferia a Roma. La periferia è un luogo brutale dove nascere, i bambini vengono partoriti nelle discariche, vengono allattati da pizza, kebab e criminalità organizzata. Statistiche alla mano, ben 17 bambini su 4 in periferia nascono analfabeti e ci restano analfabeti in periferia. Porelli! Si limitano a comunicare tra di loro emettendo sordi versi gutturali o utilizzando i nomi delle fermate della metro B, l'unica forma di civiltà con cui sono finora entrati in contatto. Oh, Castro Pretorio, Ponte Mammolo, Annibaliano, oh, Re Bibbia, oh! La situazione umanitaria nelle periferie è disperata, sempre statistiche alla mano, ben 35 bambini su 4 in periferia nascono fascisti e con la coda. Abbiamo deciso di avvicinare un giovane esemplare di periferico per stabilire un contatto. Giovane periferico, dici come ti chiami? Oh, Mestan Brutti! Mestan Brutti, che dolce e gradevole nome, Mestan Brutti. E dici, Mestan Brutti, ci vai a scuola? Faccetta nera, bella abissina! Come vedete, gli date un dito e si prendono l'intero braccio. Non c'è niente da fare, bisogna intervenire. Ed è per questo che noi della società Onlus S.p.A. Holding Roma Samagnamo Corpecorino abbiamo deciso di aiutare il giovane Mestan Brutti a evolversi, costruendogli attorno una vera e propria cinta muraria di centri commerciali, perché diciamolo, non c'è oggi fiaccola della civiltà più luminosa di un centro commerciale. Aiutiamo il giovane Mestan Brutti a evolversi, a diventare magari un bravo e bel bambino dei Parioli con una scuola privata e un corso serale di Taekwondo. In principio erano gli sconti e gli sconti erano presso Porta de Roma. E io ero presso Porta de Roma. È bello il centro commerciale, è bello, cazzo, tutto è sconto, scontrini, assaggi gratis, ci sono i marchi, le vetrine, i sex symbol, le veline. Ma chi lo dice, dico, ma chi lo dice che questa è periferia? Ma guarda qua che orgia multirazziale di suoni, di colori, di odori, di profumi. E poi dico, ci sono proprio tutti, ma anche tutti, ma soprattutto tutti i negozi del mondo. Adidas, Apple Store, Armani e Roma Store, Bata, Beauty, Bershka, Burger King e Bimby Bon, Calvin Klein, Calzedonia, Crocs and Diesel, Doppelganger, Equivalenza, Only Essenza, Esotica, Game Life, Game Store, GameStop, Geox, Scarpa che respira, Intimissimi, Ipercop, Marella, Melluso, Morellato, Napapiri, Nespresso, Prenatal, Premaman, Primadonna, The Zenis, Team, 3, Wind, Vodafone, Yamamama. Zara. Al centro commerciale c'è pure il Simpli. Il supermercato. Il discount. È bello qui. È così bello qui. Si sta così bene. Ma così tanto bene. Che io al Simpli ci vorrei morire. Io qui voglio morire al Simpli. Una morte bella e sotto costo. Una morte al risparmio. Una morte di polistirolo. Una morte col codice a barre. E quando morirò, morirò comprando. Morirò come un suino da macello, mita. Tagliuzzeranno, mi spolperanno, sarò rimischiato con altre carni, magari con le vostre carni. Di noi faranno dei magnifici tritati di carne, degli hamburger. Morirò come un sushi, morirò come un souvlaki pork. Al Simpli mangerei tutto. Sì. Mangerei tutte le cose comprate nei vostri carrelli. Sì. Mangerei i vostri carrelli. Sì, sì. Mangerei voi nei vostri carrelli. Anche. Mangerei i vostri bambini nei vostri carrelli. No, questo non puoi dirlo. Ma tanto mica è cannibalismo. Qui siamo tutti fatti della stessa carne. Siamo tutti fatti di porchetta. Siamo tutti fatti di Simmental. carne italiana. Sì, siamo uguali, lo dice anche la Costituzione. Costituzione italiana, uguali come le figurine calciatori. Siamo dei doppioni. Qui siamo due. Però siamo uno. Siamo un due per uno. Prendete e mangiate. È il corpo del Signore. In realtà è bambauletto. È il corpo del Signore, senza lieviti aggiunti e olio di semi di girasole. Ideale per tramezzini. Per chi vuole al semplice anche il corpo del Signore con grano saraceno, il corpo del Signore con semi di mais, il corpo del Signore senza glutine. Congelate i vostri corpi dei signori nei vostri freezer, così sono eterni. Al simpli voglio morire surgelato. Al simpli dormire un sonno eterno ibernato tra i piselli surgelati. Una morte da pisello surgelato. Una morte da cotechino. Una morte Findus. Una morte Delis. Una morte Gourmet. Una morte Magnum. Una morte Maxibon. Una morte Giovanni Rana. Una morte senza olio de palma. Ma non è molto meglio crepare qui al Simpli che in un cimitero? E invece che la bara, la croce, la data di scadenza? Invece del necrologio? Finire sul catalogo degli sconti. Al Simpli faccio incontri con amici di una vita fa con cui faccio liete e profondissime conversazioni. Dottor Scotti! Mondo convenienza, la nostra forza e il prezzo! Mercatone 1-1 come nessuno! La COP sei tu! Sorrisi sani dalla A alla Z! Listerine, una bomba per la tua igiene orale! Mette le ali! Esperto, gli esperti siamo noi! Mitsubishi, mi stupisci! E che vuoi di più dalla vita? Un Lucano! Ma liscia gassata o Ferrarelle? Un Lucano. Ferrarelle! Ci sono cose che non si possono comprare nella vita e per tutto il resto c'è un... Ci sta Ferrarelle! Freschissime frisk, non temere di aprire bocca. Adesso... Nel mio intimo c'è Chilli. Creato dalle donne per te? Malfrutta. La natura di prima mano. Ah, troni! Non ci sono paragoni. E che vuoi di più dalla vita? Un Lucano! Ma altissima, purissima! Levissima, sì, sì! Ma svizzero! Ma no! Novi! Ah, Aperol! Parola di Francesco Amadori, perché io valgo, Peroni, per noi! Oh! Dove c'è Barilla? C'è casa! Ciao, ciao, bocca sana, perché io valgo! Sì, sì, perché vali! Al Simpli, bancone del pesce, un'orata, alici, seppie, vongole veraci, steso nel ghiaccio, al bancone del pesce, c'è anche mio padre. Papà, ma che sei te, papà? Ciao, sì, ciao, è il tuo papà. Papà, ma che ci fai al bancone del pesce? Hai fatto la patente? No, papà, devo ancora iscrivermi alla motorizzazione. Ma te che ci fai al bancone del pesce? Che ci faccio? Mi hanno pescato. Papà, non capisco. Hai completato gli studi? Sì, papà. Bravo! Così con economia potrei prendere il mio posto. Al bancone del pesce, papà? E certo! Chi studia economia prima o poi finisce al bancone del pesce! Non ho studiato economia, papà. Ah. Hai fatto finanza? No, papà. Giurisprudenza? No, papà. Medicina? No, papà. Ma la carta fidelity? L'hai fatta? La carta fidelity? La carta fidelity? No, papà, non l'ho fatta la carta fidelity. Falla. Ah, sì? Che conviene. Conviene? Sì, fai i bollini. Ah, i bollini? Accumuli i bollini. I bollini? Io ho accumulato almeno 600.058 bollini. Ah. Ci ho preso 254 padelle. Bravo, papà. Ma non sai, padelle di tutti i tipi, grandi, piccole, per il pranzi, aperitivi, colazioni, apericene. Problema! Bravo. Quanti pranzi, papà, aperitivi e apericena, papà, puoi fare con 254, papà, padelle, considerando, papà, anche che magari il giovedì, papà, inviti gli amici, la domenica, papà, vai a pranzo da mamma. Papà. Pensa a tutte, papà, le padelle che vuoi, papà, le surgeli. Mio padre mi dice: fatti la carta fidelity. Tutto sta nel farsi la carta fidelity. Con la carta fidelity hai gli sconti, i premi, le promozioni, le offerte, i coupon, grandi occasioni. Puoi vincere un salame, le padelle, televisioni, il vino, piselli, minestroni, lavatrici, piatti, cannelloni. Con la carta fidelity biglietti omaggio per Gardaland, per Magic, per Land, Disneyland, per Mirabilandia, per Nanolandia, Acquafan, Acquafelix, Acquaworld, Acquapark. Oh, oh, oh, oh, Gardaland, oh, oh, oh. Niente più fila alla cassa. Niente più fila alle poste. Niente più fila all'ospedale. Sarai primo sempre. Con la carta Fidelity. Sarai promosso sempre. Con la carta Fidelity. Sarai premiato sempre. Con la carta Fidelity. Sarai felice. Fatti la carta Fidelity. Sarai amato. Fatti la carta Fidelity. Sarai ascoltato. Padre, mi confesso. Dimmi, figliolo, cosa ti inquieta? Non ho Fidelity, padre. Ieri sono andato al supermercato, mi sono comprato gli straccetti. Me li volevo fa alla pizzaiola. Buoni? Sì, infatti. Ma se sono scaduti gli straccetti, padre. Ah, ma avevi lavato gli straccetti a bagnomaria? No, padre, me lo sono dimenticato, padre. Chiedo perdono, padre. Ego te absolvo, straccetto bagnomaria. Vai, sei perdonato, figliolo. Mangia, seita. Non vai con Simpli e fattela la carta Fidelity. Al Simpli ho le visioni, ho le allucinazioni. Al Simpli appaiono più madonne che a Međugorje. Spesa, dolce spesa. Io mi affumico e mi essicco come un baccalà per te, Simpli. Io mi squaglio a terra come un cremino, mi sofficino, mi stracchino. Simpli per te, io patè. Simpli mi hai illuminato al neon, mi hai colpito al cuore extra affilante di mozzarella. L'anima colpita, l'anima tramortita, l'anima piadina piadina, l'anima sottiletta, l'anima morta della. Simpli nelle viscere omogenizzate, mellin cremose di mascarpone, mi ribolle torbida spuma di prosecco maschio. Mi sento biologico. Ma tu per l'apocalisse di quest'anno come stai messo? Che fai? Ma ti dico, non lo so, guarda, quest'anno non ho proprio preso programmi per ora, quindi boh, non lo so. Te per l'apocalisse che fai? No, io devo stare coi miei, figurati. Come tuoi sempre. Alla Dispoli? Sì, come tutti gli anni. No, ma... La tombolata, il cane, il gatto, la zia, la nonna, tutto quanto, la solita cosa, dai. L'apocalisse alla Dispoli. Ma questa poi è la settima che te fai lì. Sì, almeno la settima, sì, sì, sì. È proprio una tradizione. Sì. Ma tu invece come ti sei organizzato? Che fai? Ma non lo so, penso che mi faccio una passeggiata. Ah, sì, dove? Sì. A Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Passeggio a Roma. Ho preso la metro C e sono un uomo nuovo. Ho preso la metro C e adesso credo in Dio. Sono sceso dalla metro C e mo prendo la metro A. No, non pia la metro A. Ahimè, perché? La metro A oggi non passa. Pia il 219. Aspetto il 219. Non passa. Oggi c'è sciopero. Bara bam bam bom. Orsu. Lo sciopero. Orsu. Lo sciopero. Orsu. Lo sciopero. Oi bom. Lo sciopero. Te conviene andare a piedi. A piedi. A piedi. Abbiamo trasmesso Lentamente muore chi vive a Roma. Lentamente muore chi vive a Roma, più rapidamente muore chi vive in periferia. Casal bruciato, casal dei pazzi, mala grotta, chiavichetta. La periferia di Roma, che se la attraversi in macchina è un po' come farsi un safari in una lettiera per gatti, qua e là cacarelle sparse di cemento tra la ghiaia. La storta vermicino, coccia de morto, madonnetta. La gente in periferia mica passeggia. No, la gente in periferia deambula, mezza svenuta nei carrelli della spesa. In periferia ci stanno solo canneti e pali elettrici. Serpentone, infernetto, monte spaccato, sette bagni. In periferia ci sono solo scritte di gente che sta con altra gente. Maura sempre con noi. Federico sempre con noi. Benito sempre con noi. Ma c'è una periferia che sta sempre con me. Una periferia che sta sempre con me. C'è. Oddio, che è? Un abuso edilizio. Ah. E questo che è? Un altro abuso edilizio. E questo è un terzo abuso edilizio? No, questo è un parco giochi in un parcheggio di un centro commerciale. Ah, già. La periferia è la patria dei centri commerciali e degli uffici. Corri, piccolo Fetta, dobbiamo arrivare in ufficio! Sono in ritardo! Tra 5 minuti devi stare in ufficio! Sono in ritardo! Fai slalom tra le macchine per la gloria dell'ufficio! Scusa, ma da quando è che io lavoro in un ufficio? Non ci pensa, piccolo Fetta. Pensa a correre, piccolo Fetta. Tutto è un ufficio. La casa, il garage, l'astuccio, la lavastoviglie, tutto è un ufficio sotto copertura! Mamma! È inutile che chiami la mamma. Pure la mamma è un ufficio. Precisamente, la mamma è l'ufficio più efficiente. E questo è l'ufficio di 45 piani all'EUR. Eur. In circolo su un intestino snodato di tangenziali viaggiano su quattro ruote materie fecali grigio metallizzate, chiamasi Jeep, SUV, Station Wagon, utilitarie, scatarrano dalla marmitta nuvoloni di zolfo in attesa di essere espulse dallo sfintere autostradale, chiamasi casello. Termini dal brandello di mura romane squartato dal cemento al ferro delle rotaie del tre, una massa calva di schiene piegate di impiegati col trolley, calpesta la vagabonda coperta di giornali che se ne sta come una venere nel sacco a pelo, circondata da una natura morta di magrebini che si scelgono la suoneria sul telefono, una striscia di taxi in coda. Giusto il tempo di stazionare sotto la statua di Giovanni Paolo II che si slaccia l'impermeabile di ferro come i maniaci per strada, che è già via nazionale. Forza azzurri! Via nazionale, non la nazionale. Ah, via nazionale! Le macchine schizzano come caccole schiccherate, a ogni semaforo volano bestemmie di clacson come trombe del giudizio. Roma, orchestra della fine. Via nazionale, una colata di persone frana giù per la via, stiamo tutti appiccicati come gamberetti precotti in salamoia, mentre i negozi ci accoltellano di luci, luci, luci, luci, luci, mi schianto. Come una falena sulle vetrine, mi si moltiplicano gli occhi. La croce del tabaccaio ci illumina la via e tutti, tutti, fratelli, entriamo nella luce. Il tabaccaio, possiamo fumar. Possiamo almeno fumar. Possiamo ancora fumar. In sosta, come manichini al semaforo. È verde, possiamo passare. Venite, fratelli, sono il Mosè delle strisce pedonali. Ed eccola, miei fratelli, mio popolo, la terra promessa. La terra degli aperitivi. Piazza Venezia, qui la gente galleggia nello spritz a mezzogiorno come banchi di alghe. A Piazza Venezia i gabbiani planano sui miei fallimenti. Staffa o spettacolino, staffa, I gabbiani ridono dei miei fallimenti. Faride o spettacolino, Silenzio, Piazza San Pietro. Il Papa sta per parlare. Fragelli e giorelle. Dai, di qualcosa, Papa. Papa? Non mi ero preparato. Di qualcosa, qualcosa. Non mi viene in mente niente. Niente. A Castel Sant'Angelo c'è un angelo con la spada sguainata e la testa piegata. Sta guardando la scarpa slacciata. Il Papa insiste. Fragelli e giorelle. Ecco. E dai, di qualcosa. Non mi è venuto in mente niente nel frattempo. Piazza, risorgi, lento. I tram salgono e scendono, verdi come bocconi di broccoli col reflusso. Il Papa insiste ancora. Fragelli e giorelle... Dai, Papa. Ma che vi devo dire? Ma perché aspettate sempre le mie parole? Ma che vi devo dire? Le cose sono quelle. Studiate e fatevi una vita. Mamma. Datevi una affa. Amen. Papa, ma perché non dici quello che senti? Perché non dici quello che provi? Perché non dici che Roma è una città tutta rotta, massacrata, che è rotto l'autobus, che è rotta la metro, che è rotta la colonna romana, che è rotto il foro romano, che è tutto rotto e bucato il Colosseo? Perché, Papa, non dici che le strade sono tutte dissestate, che le periferie puzzano? Papa, perché non dici che tu il Vaticano lo vorresti fuori sede, che magari il Vaticano lo vorresti a Shanghai, che tu magari il Vaticano lo vorresti a Sharm el Sheikh? E invece stai sempre qui, infognato a Roma, a benedire, a benedire, a benedire. Papa, perché non ci scomunichi tutti? Papa, per una volta, perché non dici che questa città non è santa, che questa città non è eterna, che questa città è finita, che Roma è Babilonia? Papa, perché durante un Angelus non ti alzi in piedi in mezzo ai fedeli, non ti spogli e non urli? Mi sono rotto il